Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ci occuperemo di quanto è accaduto nel weekend, ossia il botta e risposta, chiamiamolo così, tra Milano e Bari. Perché dico Milano e Bari? Perché a Milano si teneva il vertice Ecofin sabato, i ministri economico-finanziari dell'Europa. A Bari si inaugurava la Fiera del Levante alla presenza, come è tradizione, del Presidente del Consiglio. Avete letto sui giornali da un lato le richieste arrivate in maniera più o meno diretta dal vertice europeo, adesso l'Italia faccia realmente le riforme, e dall'altro le risposte del Presidente del Consiglio Renzi, che ha detto le riforme le decidiamo noi, piuttosto l'Europa si impegni a dare quei 300 miliardi, che è la cifra di cui ha parlato il neo presidente Juncker nel suo discorso di insediamento. Ci sono un piano da 300 miliardi. Personalmente, finché non lo vedo, non ci credo, anche perché l'Europa di piani ne ha annunciati molti. Faccio notare, come già abbiamo fatto la settimana scorsa, che invece l'Europa, la nuova Commissione europea, i nuovi commissari sono molto a trazione tedesca. Mi riferisco ai finlandesi, ai lettoni, ma non solo, e quindi c'è chi si immagina, chi si illude che ci sia un'Europa più comprensiva, più per la crescita, a mio avviso sbaglia, e aumenta o resta ampiamente in piedi la divergenza tra le posizioni italiane e francesi da un lato e tedesche degli altri paesi satelliti in quel caso. Dicevo, di questo parleremo anche perché domani vi sarà l'intervento del Presidente del Consiglio in Parlamento sui 1000 giorni, quindi l'agenda. Però da più parti si inizia a dire, beh, attenzione, qui il rischio l'Europa ha fatto capire che il potenziale, la possibilità di un commissariamento di un'Europa che potrebbe anche perdere la pazienza è reale. In realtà da altre parti si fa notare come in questo momento, più che un vero e proprio commissariamento, la cosiddetta troica, quella che ha beccato, che si è beccata la Grecia, ma anche l'Irlanda, vi potrebbe essere una forma che noi abbiamo definito scherzosamente di troika light, che non è un tipo di ballo o un cocktail. Sarebbe una versione in cui l'Italia dà tutta un insieme di scadenze, si chiama in gergo roadmap, sulle riforme, ci dice faremo questa riforma in questo mese, entro questi mesi, e l'Europa andrebbe a verificare l'effettiva applicazione di queste riforme. È un'ipotesi di un monitoraggio più leggero, perché Renzi ha già detto chiaramente che non accetterebbe nessun monitoraggio, nessuno così casco blu dell'Unione Europea a vedere se le riforme le facciamo oppure no. Però anche oggi faccio notare che ci sono le stime dell'OCSE, domani usciranno quelle del Centro Studi Confindustria, ripresa nell'Unione Europea deludente, soprattutto in Germania, Francia e Italia, cioè abbiamo fatto mezza Europa. In alcuni paesi ancora sfide strutturali di bilancio, e va bene. Per quello che riguarda l'Italia, attenzione, quest'anno dice l'OCSE che faremo meno 0,4. Perché dico faremo meno 0,4? Perché siamo partiti da un inizio anno con un più 0,8. Addirittura il neogoverno Renzi, quando si insediò, disse beh, con le misure sugli 80 euro potremmo aumentare di altri 0,2, quindi arrivare all'1%. Noi ci permettemmo di far notare che tutti gli istituti di ricerca avevano abbassato notevolmente, istituti di ricerca mi riferisco a Fondo Monetario, OCSE, Centro Studi Confindustria, avevano abbassato, e anche l'Istat, le previsioni notevolmente. Il governo ha preso atto, che adesso lo ha fatto ad agosto con l'ultimo dato sul PIL italiano, che l'economia dovrebbe crescere dello 0,2-0,3, e però sarebbe ancora un'economia, diciamo, stagnante ma non in calo. Se venisse confermato che l'Italia, unico tra i paesi del G7, farà anche nel 2014, avrà il segno meno, si tratterebbe di un altro anno di recessione. E poi anche la stima sul 2015 non è di quelle che ci lasciano tranquilli, più 0,5, vedendo com'è andata quest'anno e com'è andata gli anni prima, non è gran cosa. Allora, Per quello che riguarda invece il Standard & Poor's, l'agenzia di rating ha tagliato la stima sul PIL italiano a zero, a giugno prevedeva uno 0,5%, forse era eccessivo quello di giugno, ci sono dei ritardi dell'Italia nelle riforme intraprese, hanno fatto fallire l'obiettivo di far risalire la fiducia delle aziende e degli investitori. Ma non so se sia proprio questo il motivo. Comunque, effetti limitati, dice Standard & Poor's, sui consumi dagli 80 euro. E tra l'altro l'effetto sul PIL, dice sempre l'agenzia di rating americana, invece che essere dello 0,3% si è ridotto a uno 0,1%, mentre la domanda interna resta anemica. Chissà se tra gli scarsi effetti che stanno avendo gli 80 euro, io invito comunque, sono d'accordo in chi dice aspettiamo un attimo, diamo qualche mese, però è ovvio che forse qualche effetto in qualche modo di riduzione dell'impatto ce l'ha quello che sta capitando su Tasi e IMU. Cioè, abbiamo raccontato anche la settimana scorsa che moltissimi comuni italiani hanno scelto la linea massima, cioè lo 0,8 per 1000. Lo dico anche perché oggi sul Sole 24 Ore, sarà un altro tema di questa puntata, c'è un'interessante ricostruzione di quello che è successo dei trasferimenti da Roma verso i comuni, cioè dallo Stato centrale verso i comuni. Perché? Perché insomma, guardando la tabella del Sole 24 Ore emerge chiaramente come nelle ultime quattro manovre i tagli si siano concentrati soprattutto, in media i sindaci hanno avuto il 43% in meno dei fondi, ma uno se va a Lodi, a Brescia o a Lecco ha avuto il 70% in meno. A Caserta, Cosenza e Messina non si arriva oltre al 30%, a Milano i trasferimenti sono calati del 63%, a Napoli o a Palermo del 31%. Ora, sarebbe interessante capire, cercheremo di farlo, come mai a fronte di una media del 40% questi tagli vadano a collocarsi soprattutto, lo dico in maniera molto neutra, al nord del paese. Non tutti, Torino per esempio ha avuto meno 43, ma se uno guarda la classifica oggi su Sole 24 Ore, le principali città, le prime 20, praticamente sono tutte al nord, al massimo centro-nord del paese. La borsa anche oggi sarà, come sempre, frutto di approfondimento, meno 1% Milano, è la peggiore oggi in Europa. Parigi fa meno 0,30, Francoforte è invariata, Londra perde lo 0,20, l'America guadagna lo 0,1%. Milano perde tanto per via soprattutto delle banche. Monte dei Paschi meno 3,60, il Banco Popolare meno 3%, Pop Milano meno 2,40, Azimut meno 2,20, male anche Buzzi Unice meno 3,60 e STMicroelectronics meno 2,60%. Vanno bene invece Moncler più 1,60, Finmeccanica più 1%, Ferragamo e Campari più 0,80%, Tenaris più 0,45%, e tra le banche citiamo invece Intesa San Paolo che è positiva di uno 0,25%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e adesso come sempre le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda l'economia internazionale, partiamo sempre da lì, già i nostri GR24 vi hanno anticipato il nuovo record negativo del rublo russo contro il dollaro, questo sullo sfondo delle nuove sanzioni occidentali. Per la prima volta nella sua storia, per comprare un dollaro ci vogliono 38 rubli. E poi c'è Porto Rico, voi direte che cavolo c'entra Porto Rico? Porto Rico è considerata quasi uno stato di fatto dell'America, degli Stati Uniti, ci sono infatti importantissimi interessi finanziari americani, ma è in forte crisi e rischia un fallimento, un crack da 70 miliardi di dollari. A sostenere il paese e cercare di rilanciarlo, pensate un po', sta lavorando un gruppo di 28 hedge funds, quindi fondi altamente speculativi, tra cui alcuni fondi avvoltoio, definiti così. Perché? Perché hanno acquistato titoli portoricani a prezzi da saldo, ritenendoli sottovalutati dal mercato, e scommettono su una ripresa. Sono arrivati a possedere il 10% del debito di Porto Rico e stanno cercando di risanarlo. Ora è ovvio che lo fanno per un interesse, non perché gli hedge fund improvvisamente siano diventati delle ONG o si siano messi a lavorare nel settore no profit. Hanno segnalato per esempio al governo locale che stava usando statistiche e indicatori anacronistici. Altri fondi hanno scoperto che il paese non ha mai fatto richieste per finanziamenti di cui avrebbe diritto fino a $1 miliardo. Insomma, il risanamento del debito portoricano è affidato ai fondi speculativi. Visto che poi parleremo dell'ipotesi Troika Light, vedo che qualcuno la sta già usando, è una nostra invenzione, è semplicemente per dire che Renzi ha smentito ogni forma di monitoraggio che dovrebbe essere sottoposta all'Italia, però c'è chi dice, beh, forse potrebbe essere questo è l'oggetto dello scambio. All'Italia viene data autonomia, diciamo, nelle tappe delle riforme, però l'Europa si impegna a monitorarle con molta attenzione. Dicevo, per capire cosa ha voluto dire la Troika nel paese che più l'ha sperimentata, e mi riferisco alla Grecia, è interessante notare quello che oggi scopriamo, ossia che in Grecia, dunque è iniziata nel 2011, siamo a 3 anni abbondanti di cura della Troika, un lavoratore dipendente su 3 guadagna poco più di 300 euro al mese al netto delle imposte. Praticamente sarebbero ci sono oltre 500.000 di dipendenti del settore privato con occupazione part time, e tutti i contratti di lavoro si sono ridotti negli ultimi anni, e anche perché le misure adottate dal governo di Atene su richiesta della Troika hanno voluto dire, lo ricorderete, sospensione delle tredicesime e quant'altro. Pensate che nel 2014 il salario medio annuale in Grecia è stimato in 21.900 euro annui, meno che in Slovenia e Cipro. Non so, per dare un esempio, la Francia ne ha 49.000, l'Irlanda 44.000, la Germania 38.000, la Spagna 34.000. È vero che in Grecia però persiste, come sa chiunque vi si sia recato per lavoro o per diletto, anche un'altissima economia sommersa, soprattutto nei luoghi turistici. Questo era uno dei grossi problemi della Grecia, cioè impiegati pubblici stratutelati, ma un nero da fare invidia anche all'Italia, quindi un'evasione fiscale altissima. Allora, mentre l'altra agenzia di rating sono 3, una è Standard & Poor's, una è Moody's e l'altra è Fitch, dicevo, Fitch ha dei dubbi sul fatto che il maxi prestito che sta per erogare la Banca Centrale Europea, le banche europee dell'area euro, possa servire a rilanciare il credito. Il premier Matteo Renzi ha detto che sul giudizio di Standard & Poor's sull'Italia, quindi crescita pari a zero, sofferenze italiane che diventano più pronunciate, dubbi sulla ripresa, Renzi, su queste tematiche domani farò un lungo intervento in Parlamento ed entrerò nel merito delle proposte e delle idee, ma evito di parlarne qui e adesso. Questa è la dichiarazione di Renzi al termine dell'inaugurazione dell'anno scolastico, appunto, all'Istituto Don Pugliese di Palermo, dove ha confermato che nella scuola ci sono comunque 149.000 persone che hanno l'obbligo di essere assunte. Ma dicevo, sarà interessante vedere quali saranno gli interventi sull'Europa domani alla Camera sul programma dei mille giorni. Nel frattempo, ancora due notizie in breve prima di passare a da un lato la TASI, ma dall'altro soprattutto il taglio nei trasferimenti dallo Stato ai comuni. Volevo dare ancora due notizie. La prima riguarda lo shopping italiano, visto che si sta per aprire la settimana della moda a Milano. Lo shopping di Made in Italy parla sempre più cinese, più 18% le spese dei turisti cinesi per acquistare moda, i russi restano i primi ma hanno avuto un calo del 13%, e ancora il fatturato complessivo del settore è in modesto calo, meno 1% rispetto al 2013, crescono solo gli accessori più 6,7%, ferme le calzature meno 0,5%. La seconda notizia riguarda l'Expo. Il numero uno Giuseppe Sala era oggi ospite nella prima puntata di Mix 24, l'intervista con Giovanni Minoli questa mattina Radio 24, e ha detto: attenzione, garantisco che ci saranno 20 milioni di visitatori all'Expo. Garantisco che arriveranno 20 milioni di visitatori, perché ad oggi, ripeto, abbiamo venduto 5 milioni e 400 mila biglietti. Io sono molto confidente. È tanto a 8 mesi dalla partenza. No, ma in proporzione con gli altri Expo è molto di più, ma il problema è, diciamo, l'opportunità è che noi stiamo vendendo l'Expo e il nostro paese, quindi guarda, quando noi abbiamo detto vogliamo 1 milione di cinesi, ci prendevano per pazzi. Noi ne faremo 1,5 milioni almeno, perché i cinesi amano l'Italia, andiamo via noi, insomma, per farli entrare a Milano forse. Senta, quanti paesi oggi hanno comprato lo stand e verranno sicuramente? Allora, i paesi comprano un'area e si costruiscono, diciamo, certamente 53, forse 55, il record precedente era 42, polverizziamo tutti i record. Bene, senta, l'effetto sanzioni, però, in questo scontro Europa-Russia, potrebbe farsi sentire in un settore delicato come l'alimentazione? Già nelle esportazioni si sente? No, oggi noi non abbiamo segnali, abbiamo un segnale invece di attenzione sull'Ucraina, che probabilmente non verrà, mentre tutti ci terremmo che venisse. E settembre 2014, cioè oggi, era la data di fine lavori per molti cantieri. Quanti sono stati consegnati? No, ma sulla piastra, che è quello fondamentale, siamo all'80%. Abbiamo 3-4 mesi di ritardo dovuto fondamentalmente al maltempo e a qualche guaietto giudiziario. Ecco, diciamo. Senta, lettera innamorato dell'Expo. Renzi è innamorato? Ma Renzi mi pare a questo punto molto convinto. E allora ha avuto cosa probabilmente si dubbi faccia? Iniziali, ma adesso lo vedo molto. E adesso convinto. Cosa si aspetta? Ecco, che questo che aiuti veramente a far capire che il turismo, noi continuiamo a dire da decenni, io e lei, che abbiamo qualche anno, il turismo, il petrolio d'Italia, ma ecco, stiamo un po' perdendo questa occasione. Allora, così appunto Giuseppe Sala, commissario dell'Expo, ai microfoni del nostro Giovanni Minoli. Però, visto che parliamo adesso di città del nord e città del sud, lasciatemi raccontare solo una cosa. Qualcuno si ricorda del comune di Catania, che fu salvato dalla bancarotta nel 2008 con uno stanziamento dal loro governo Berlusconi da 140 milioni di euro per ripianare i debiti del comune di Catania? E la gestione delle giunte precedenti a quella finirono ripetutamente sotto la lente della Corte dei Conti, per una serie interminabile di irregolarità contabili. Pensate che il comune di Catania spendeva 500.000 euro ogni anno per consulenti esterni, poi non vi sto neanche a raccontare i rimborsi facili per le spese di rappresentanza, con una ragioneria che rimborsava tutto. Però c'è una cosa molto singolare. L'associazione Codici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, Codici all'Autorità, ha segnalato all'Autorità Nazionale Anticorruzione che il comune di Catania avrebbe erogato premi da oltre 154.000 euro ad alcuni dipendenti dell'ufficio tributi. Allora, come mai? Boh, perché l'identità e il numero dei beneficiari e anche la loro identità sarebbe ignota, in spregio alla normativa che prevede una forte trasparenza in materia. L'associazione ha chiesto già chiarimenti al comune, ma non ha avuto ancora nessuna risposta. È interessante questa distribuzione di 154.000 euro, perché, come premi extra stipendio, perché si inserisce all'interno di una misura che prevede la distribuzione di fondi per oltre 600.000 euro nel corso dell'anno. Ora, a meno sapere a chi li dai, io spero che tu li dia bene, ma se non sai neanche chi li dà, è difficile che tu riesca a premiare il merito. Cos'è? Un premiare il merito alla cieca? Alla roulette russa? Adesso vi leggo invece che cosa ci ha mandato un ascoltatore. Mi ha detto: ma come si fa a investire in questo paese quando, per calcolare la TASI, il ministero, o anzi il Dipartimento delle Finanze, ti risponde così? Ha una lettera in cui si chiedeva, scusatemi, come funziona l'addizionale per la TASI, la cosiddetta super TASI, che comporta un vincolo in capo ai comuni, per cui il gettito relativo sarà destinato ai contribuenti che pagheranno meno TASI sull'abitazione principale e pertinenze. La sostanzialmente risposta del Dipartimento delle Finanze è stata questa: l'applicazione della supertasi non è agevole in quanto dispone il seguente principio: tasi più IMO non deve generare un carico tributario superiore alla sola aliquota IMU fissata al 31 dicembre 2013 al 10,6 per mille, tenendo anche conto che l'aliquota massima della TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille. Rileggo, perché in radio è difficile, mentre quando lo leggi è facile. Allora, l'applicazione della supertasi, la norma dispone il seguente principio: TASI più IMU non deve generare un carico tributario superiore alla sola aliquota IMU fissata al 31 dicembre 2013 al 10,6 per mille, tenendo anche conto che l'aliquota massima della TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille. Non ho capito niente. Per cui abbiamo in studio Gianni Trovati, Sole 24 Ore, che era convinto di venire a parlare della spending review, dei tagli ai comuni che colpiscono più quelli del nord che non quelli del sud. Però aiutami, cioè, che cosa vuol dire che TASI più IMO non deve generare un carico tributario superiore alla sola aliquota IMU fissata al 31 dicembre 2013 al 10,6 per mille? Questo lo capisco anch'io, tenendo anche conto che l'aliquota massima della TASI per 2014 non può eccedere il 2,5 per mille. Traduzione? Allora, buonasera a tutti. Vuol dire che le norme avevano provato a fare in modo che la TASI non permettesse al carico fiscale locale, diciamo così, sugli immobili di superare i tetti dell'IMU dell'anno scorso. Ci ha provato in realtà, perché poi non c'è riuscita. Ricordavi prima che i comuni possono mettere lo 0,8 per fino allo 0,8 per finanziare le detrazioni, e quindi se mettono lo 0,8 per mille sulle seconde case o sugli immobili d'impresa o sui negozi, e l'IMU dell'anno scorso era più bassa. Facciamo il caso pratico, se no non si capisce niente. A Milano l'IMU su i capannoni o i negozi era l'IMU sui capannoni e sui negozi era il 10,6 per mille. Quest'anno IMU più TASI sarà 11,4 per mille, cioè il 10,6 dell'altra volta più lo 0,8. Si era detto che questa aliquota aggiuntiva doveva essere destinata integralmente, esatto, agli sconti, alle detrazioni. Così non è, non solo a Milano, in quasi tutti i comuni che lo hanno previsto, perché sostanzialmente il controllo di questo vincolo di destinazione era impossibile. La norma in più è stata scritta male perché è frutto di trattative, tavoli, sì, eccetera, e nessuno ci capisce più nulla. Ecco, la super cazzo la TASI, scrivono gli ascoltatori. No, io voglio dire una cosa però. Questo è la dimostrazione che in Italia, perché la prima battuta che mi viene in mente, potevamo tenerci l'ICI, neanche l'IMU, l'ICI. Nel senso che come tu inizi a toccare una tassa in Italia, siccome poi il gettito è quello che è, vedi bene che tu la tocchi, fai finta di elevarla e quando ritorna è come certi virus, diciamo, se non fai la cura antibiotica fino in fondo, te li ribecchi più virulenti, ecco, mettiamola così, te ritorna di nuovo ma in forma ancora più resistente e alta, perché obiettivamente poi ci si chiede perché non c'è l'effetto degli 80 euro. Io non sto dicendo, lo dico a chi scrive, che gli 80 euro vengono annullati, intanto perché sono di più, adesso una stima normale di quello che paga un'abitazione sui 200, 140, 250 euro all'anno. Gli 80 euro sono al mese, e se una coppia è tra i 18 e i 24 mila euro lordi sono 160 euro. Non sto dicendo questo, sto solo dicendo che viste le scadenze fiscali di adesso non c'è da sorprendersi che gli 80 euro non abbiano avuto effetto in molti casi, perché se tu ti becchi una TASI che è anche più alta dell'IMU, che a sua volta è più alta dell'ICI, beh, insomma, poi alla fine del mese ci dobbiamo arrivare tutti, per cui su questo attenzione. Terapia tapioco, brematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Befadina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Postertati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapiolo. L'applicazione di Tasi più IMU non deve generare un carico tributario superiore alla sola aliquota IMU fissata al 31 dicembre 2013 al 10,6 per mille, tenendo anche conto che l'aliquota massima della Tasi per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille. Come se fosse Antani. Allora, adesso arriviamo anche al taglio dei trasferimenti. Non capisco. Mi scrive un ascoltatore, leccapiedi, vabbè. Come si fa a investire in un paese dove l'informazione la fa Confindustria e il servizio pubblico praticamente inesistente? Allora, a parte il fatto che se il servizio pubblico secondo lei è praticamente inesistente, io che colpa ne ho? Due, insomma, questa cosa di Confindustria, ma perché lei non dice, non è che quando dice un giornalista di Repubblica lei lavora per Sorgenio, per De Benedetti? Allora, io lavoro solo 24 ore, no? Che ha un editore importante, la quota di maggioranza in Confindustria, ma non ho capito di cosa si lamenti, però me lo chiarirà più avanti, immagino. E poi c'è un ascoltatore che ha l'idea un po' confusa, perché dice: Barisoni, lei non conosce la vergogna, le persone non hanno nemmeno i soldi per la spesa e lei mi parla di Tasi IMU ICI. Io le parlo di Tasi IMU ICI perché le persone non hanno, che mi permetto di dire, si scrive con l'H davanti, non hanno nemmeno i soldi per la spesa. E appunto cerchiamo di capire se con un aumento delle imposte sulla casa si possono ripartire i consumi. Ho scatenato le ire di altri ascoltatori dicendo la Tasi media 200-250, perché mi arrivano segnalazioni a Trieste, in periferia, a Rozzol, appartamento di 100 metri quadri, IMU 2012 592 euro, va bene, va male, ma insomma, e altri contestano che possa essere così bassa, loro pagano o pagherebbero Tasi molto più alti. Era, diciamo, alta, era una media. Detto ciò, era solo per far capire come mai, se devi pagare questo anche se ricevi gli 80 euro, forse adesso non aumenti i consumi. Comunque, già ritrovati, come mai nel ridurre i trasferimenti dallo Stato ai comuni, trasferimenti ridotti in 4 anni anche del 70%, in milioni di euro, non so, l'Odine ha preso 6 in milioni in meno, Brescia 32 milioni in meno, Venezia 63 milioni in meno, Milano 317 milioni in meno. In percentuale, la maggior parte delle città del centro-nord viaggia tra il 70 e il 50% dei tagli, la maggior parte delle città del centro-sud viaggia tra il 30 e il 40%. Come mai? Allora, partiamo da un dato legato al fatto che le città del centro-sud mediamente hanno di partenza una quota di trasferimenti maggiore e quindi il taglio percentualmente si sente meno. Ma il problema vero è il criterio, i vari criteri sbagliati, diciamo, che si sono susseguiti negli anni. Anche qui la diciamo semplice, così non rifacciamo la supercazzola della Tasi. Praticamente si è detto con la spending review di Monti 2012, criterio poi confermato dalle manovre successive, compresa l'ultima del bonus Renzi. Tu, comune, più spendi, più sprechi, quindi più spendi in proporzione naturalmente agli abitanti, bla bla bla, più ti taglio. Il principio sarebbe corretto se tutti i comuni facessero più o meno le stesse cose, gli stessi gradi di servizio. Ma è naturale che se il comune numero uno ha posti all'asilo nido a volontà, una buona assistenza domiciliare, eccetera, eccetera, eccetera, spenderà molto di più rispetto al comune due, che spende poco, ma magari gli asili nido non ce li ha o ne ha pochissimi, non ha il trasporto degli alunni delle scuole, non ha altri servizi. Però per farmi capire, cioè, tu dici i tagli sono più forti nei comuni del nord perché hanno un tasso di spesa mediamente maggiore, più alta, ma legato a un maggiore tasso di servizi. Se ho capito quello che tu dici, scusatemi, Questo vuole anche dire che se tu tagli del 70% i trasferimenti al comune di Brescia, 30 milioni in meno, in qualche modo dovrà ritrovare, o a Siena del 10 milioni il 60%, o a Padova di 34 milioni il 60%, e via così, vai a impattare anche sui servizi, o meglio sulle casse, e il comune, per non smettere di erogare un servizio, dovrà fare qualcos'altro, perché cioè, abbiamo parlato di Tasi, di IMU, sì, eccetera, fino appunto a poco fa tutto si tiene, le due cose sono naturalmente collegate. In generale il gioco negli ultimi anni di tutti i governi, dall'ultima fase di Berlusconi a Monti a Letta e a Renzi, e il gioco è stato abbastanza semplice, cioè si taglia risorse all'inizio e si danno strumenti, ma anche responsabilità fiscali ai comuni. Quindi io ti taglio le risorse e tu metti le tasse. Però scusami, se capisco bene, il comune di Caserta, che al di là della cifra assoluta che non vale nulla, cioè perché bisognerebbe sapere qual è il bilancio complessivo, ha avuto un taglio di 4,6 milioni, che è pari al 19% dei fondi che aveva nel 2010. Il comune, diciamo, cerco di prendere uno come popolazione, spero di non dire cavolate, è simile, diciamo tra Padova e Varese, dovrei arrivarci, hanno avuto il 60% di tagli. Ora, questo vuol dire che saranno più obbligati ad aumentare le varie imposte locali, a partire da quella della Tasi, i comuni del nord, questo voglio capire. Tendenzialmente sì, perché naturalmente di fatto non c'è più, o non c'è quasi più, trasferimento erariale in quei comuni. Teniamo conto che questi erano trasferimenti statali nel 2010, ma oggi sono fondi, si chiama fondo di solidarietà, che è alimentato dalla stessa IMU. Allora cosa succede? Se i comuni hanno più alta capacità fiscale, cioè un gettito a parità di aliquote maggiore, devono conferire dei soldi a questo fondo che li dà ai comuni, diciamo, più poveri. Ne consegue che o in media nei comuni del nord, oltre ad aver avuto una maggiore percentuale di tagli, c'è anche una maggiore quota di IMU che va conferita a questo fondo nazionale per... Cioè, detta così sembrerebbe in un linguaggio molto economico cornuto e mazziato. Sì, ma teniamo conto che in parte, allora, se questo fosse derivato da un'analisi sulla reale capacità fiscale dei territori e sui cosiddetti costi standard, va bene, i comuni del sud hanno meno gettito fiscale e quindi tendenzialmente devono avere più aiuto. Il problema è che nulla di questo è avvenuto, i costi standard non ci sono ancora, è stata presentata un'elaborazione teorica che però si riferisce al 2010, al convegno di presentazione del presidente dell'ANCI, ha detto bellissimo, molto bello dal punto di vista statistico, non usateli per nessuna manovra, per dire quanto si possono utilizzare, e invece i risultati che abbiamo descritto oggi sono il frutto, in parte casuale, in parte voluto, di una serie di criteri, diciamo, che si sono stratificati negli anni e che sono sbagliati, perché non misurano mai l'output, cioè il prodotto, quello delle che, attività che un comune dei offre. Comuni. No, perché sennò a essere cinici verrebbe voglia dire: sai che c'è? Io offro meno servizi, così tu mi tagli di meno. Però a quel punto la tua mannaia colpisce di meno, perché se tu poi vai a colpire i comuni che erogano più servizi, cioè che hanno un alto bilancio, ma perché dentro ci sono gli asili, altre forme di assistenza e quant'altro, è chiaro che oltre al danno hai anche la beffa. Ecco perché, al di là dei Twitter, degli annunci, degli slogan, sarebbe importante prendere in mano il lavoro già fatto anche nel passato, cioè non è che ogni volta che arriva un nuovo presidente del Consiglio deve smontare quello che ha fatto il precedente. Il tema dei costi standard all'interno dell'impianto del federalismo fiscale, a nostro avviso, era un tema corretto, poi valeva soprattutto per la sanità, ma non solo. Allora, andate avanti anche su quanto è già stato elaborato nel passato, perché sennò ogni volta si riparte da zero, si fanno dei grandi annunci e poi il Sole 24 Ore, per chi volesse la classifica, è sul quotidiano a pagina 6, ti dimostra che una certa sperequazione c'è. Grazie Gianni Trovazzi. Grazie a voi. In diretta con Sebastiano Barisoni, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, oggi do qualche risposta, siamo inizio settimana. Mi scrivono spesso gli ascoltatori, adesso questo è l'ultimo caso, ma lei di cosa parla? Barisoni, tutti sanno che l'Italia è destinata a fallire, lei dove vive? eppure un bravo giornalista, come fa a essere così superficiale? No, guardi, cioè, secondo me è un po' superficiale, se posso permettermi, questa, così, questo continuo commento che ricevo tutti i giorni, tanto siamo già falliti, tanto siamo falliti. Allora, attenzione, perché quando si parla di cose serie come il fallimento di uno Stato, io inviterei tutti a ricordarsi che cosa è successo in Argentina col Corralito, con il blocco dei prelievi anche nei conti correnti. Quindi prima di, allora, se poi il fallimento vuol dire una visione storica hegeliana sul destino di questo paese, possiamo essere d'accordo che più che falliti c'è un declino e un piano inclinato che va avanti da anni, che riguarda l'Italia ma riguarda più in generale l'intero ruolo dell'Europa. Ma se parliamo di paese fallito, come fallisce un'impresa, attenzione, io tutto posso sperare tranne questo, e finché non lo vedrò non mi rassegnerò mai al fatto che la seconda manifattura d'Europa e il secondo paese come tasso di risparmio per cittadini possa fallire per l'incapacità di mettere in piedi alcune riforme e di andare a contrattare alcune margini in più in Europa. Non mi rassegno, anche se c'è chi pensa che noi siamo già falliti. Va bene, Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. La borsa, meno 1% Milano, dopo giornate in cui saliva più di altre borse, non mi preoccuperei almeno di questo. Francoforte invariata, Parigi meno 0,30, Londra invariata, l'America pure. Oggi deboli alcune banche, a partire soprattutto dal Monte dei Paschi meno 3,70, Banco Popolare meno 3,40, Pop Milano meno 2,70 e ancora Azimut meno 2%. Si salva, o meglio, fa eccezione Intesa San Paolo, che guadagna lo 0,17%, e bene poi Moncler più 1,60, Finmeccanica più 1%. Allora, banche, ma anche Ferragamo e Moncler. Sì, ovviamente le previsioni dell'OCSE e di Standard & Poor's e Finmeccanica, scusami, qui le mettiamo tutte e tre, hanno pesato, e si è venduto soprattutto il comparto dei bancari, quindi MPS in primis, che ha perso quasi il 4%, nonostante peraltro lo spread sia rimasto stabile. E poi ovviamente per quanto riguarda Finmeccanica invece sono circolate di nuovo indiscrezioni sull'imminente cessione di Ansaldo Breda e Ansaldo STS, in particolare la stampa riferisce di un interesse della francese TAL per Ansaldo STS, quindi questo ha ovviamente spinto in alto le quotazioni. Moncler e Ferragamo si scaldano i motori per la settimana della moda milanese, inizia mercoledì, e quindi il mercato magari scommette che nei prossimi giorni escano novità, speriamo positive, sul settore. In più comunque su Moncler è arrivata una raffica di raccomandazioni positive da una serie di banche, UBS, JP Morgan e Deutsche Bank, che ha ovviamente riacceso i riflettori sulle azioni. Minuti, concludiamo l'approfondimento di borsa e poi andiamo a ragionare su quello, non tanto quello che potrebbe dire domani il Premier Renzi, ma questa ipotesi che sentiamo un po' circolare di un commissariamento light, di una troica light, e noi speriamo sempre di sbagliarci. Poi facendo anche altre risposte, oggi vedo gli ascoltatori belli incattiviti. Comunque, Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, dicevamo dei titoli che meglio si sono mossi e anche dell'effetto delle stime dell'OCSE, di cui adesso parleremo, sul resto. E quindi oltre alle banche c'è ST Microelectronics il 2,6, Mediolanum 2,6, Yux il 2,1, Snam il 2, Mediaset l'1,80, come CNH e anche G-Tech. Per quello che riguarda però A2A e anche direi Snam, potremmo aggiungere qualcosa in più oltre l'andamento normale del mercato, cioè in media col mercato, prego. Sì, A2A è una sorvegliata speciale perché si ipotizza che a breve si possa fondere con Iren, peraltro il Sole 24 Ore ha indicato proprio i dettagli dell'operazione, che prevederebbero da un punto di vista finanziario un aumento di capitale da almeno un miliardo di euro per ridurre soprattutto l'indebitamento e la discesa dei soci pubblici attorno al 40%. 30%, e d'altra parte non si sa bene quale sia la tempistica. Di sicuro il mercato controlla i due titoli, con Iren che è salita di oltre l'1%, dello 0,66%, mentre A2A ha perso terreno e ha lasciato sul parterre l'1,14%. Per quanto riguarda Snam, anche in questo caso diciamo che gli analisti sono alle prese in alcune considerazioni dopo che il CDA di venerdì scorso ha approvato l'acquisizione dell'85% di una società austriaca per 505 milioni. L'operazione richiederà un aumento di capitale dello stesso importo, che comunque verrà sottoscritto dalla Cassa Depositi e Prestiti. Comunque l'operazione sembra poco convincere il mercato, perché Snam è partita debole e alla fine ha perso un po' più del mercato, e il 2%. E questo per quello che riguarda Snam Rete Gas. Altri titoli li abbiamo già dati, mi riferisco a Fiat meno 1,14%, debole oggi anche Telecom meno 0,80%, ma non voglio più parlare della Telecom, novella. E invece positiva anche Campari più 0,80%, Intesa dicevamo più 0,17%. Tra i migliori e peggiori Mail Up più 8,16%, TAS più 4,30% e Iniziative Bresciane più 4,30%. Poi la Sogefi che è sotto i riflettori. Lì Eleonora, c'è l'accordo con l'Audi per la nuova A6, giusto? Sì, il mercato infatti ha festeggiato questo accordo con Audi, un accordo prestigioso, e appunto la Sogefi fornirà gli ammortizzatori alla nuova Audi A6. E infatti questo poi premia il titolo più 3%. Sul fronte opposto Seat pagina gialla meno 6,60, IMSI meno 4,60, la Doria meno 4,40%. Grazie ad Onore Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso veniamo al tema ultimo della puntata, però devo dire che insomma la marea di insulti che mi sto beccando, allora devo chiedere un po' di passaggi. Io non ho detto che l'Italia, ho detto che parlare di un paese fallito, come fanno secondo me con leggerezza alcuni ascoltatori, tanto siamo falliti, Barisoni, piantala, sei patetico, vado alla rinfusa sugli insulti che sto ricevendo, ti sei anche Mona oltre che rinnegato, vabbè, questo lo capirà lui, però ci arrivo anch'io sulla parte Mona, sull'altra non ho capito cosa voglia dire, ma dico tutta questa cosa, io ho semplicemente detto attenzione, prima di dire bellamente tanto l'Italia è fallita, ho capito chi mi scrive dice che con questi numeri la mia impresa sarebbe già fallita, certo, però restiamo il paese con la seconda manifattura d'Europa, restiamo il paese che ha l'export più importante dopo la Germania, restiamo il paese dove il patrimonio degli italiani, i risparmi sono dopo la Francia quelli più alti e molto più alti di quei tedeschi. Allora parlare di un paese fallito è un po' il discorso del convento povero ma i frati ricchi, mi sembra difficile, che è questo un punto. Sono per il resto deluso quanto voi dall'ennesimo PIL, che tanto l'abbiamo capito ragazzi, lo stiamo dicendo da luglio che i dati che stavano arrivando dovevano imporre al governo subito una rettifica, perché è inutile continuare col più 0,8 quando a luglio l'Istat, il Fondo Monetario, il Centro Studi Confindustria, l'Ocse si sono messi a dire forse farete 0, forse 0,2. Adesso, oggi, la notizia di oggi è che l'Ocse dice farete meno 0,4. Io non più tardi di venerdì scorso dicevo secondo me rischiamo anche il meno 0,8, da più 0,8 a meno 0,8, quindi un altro anno di recessione, ma non prendetevela con me, perché quando lei mi dice ma lei ormai è patetico con la storia delle riforme, della ripresa che ormai racconta praticamente da 4 anni, non si rende conto di dire sempre le stesse cose, non ci crede nemmeno più lei, comunque è pagato per farlo, ma che lo sono pagato per dire che c'è la ripresa, anzi mettiamo in guardia quando vediamo i dati contrari, noi speriamo che ci sia la ripresa, ma poi vediamo e leggiamo altre cose e regolarmente il governo in carica tende a dire che la stampa ce l'ha con lui, che i giornalisti sono dei gufi, oppure una volta si diceva comunisti, adesso si dice gufi. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Sì, è certo, sono come i politici, vivono in un altro mondo. Vabbè, non so, vogliamo fare la gioco dei politici, quanto costa il latte, con dove vado a fare la spesa. Però io capisco, adesso, al di là delle battute, anche per mettere un po' di leggerezza, capisco benissimo che sia difficile, poi non se la prende col pianista, nel senso con chi non ha responsabilità in questo caso, perché dice attenzione, anche quest'anno ormai è certo, non solo non cresciamo, qua ci scappa pure un altro anno di recessione. Faccio notare che noi ci limitiamo a dare notizie e cercare anche un po' di anticiparle quando c'era chi sosteneva no, no, va tutto bene, ma dava la Marchesa. Ma capisco la frustrazione, ci mancherebbe, perché tutto potevamo immaginare dopo le dichiarazioni di Letta, le dichiarazioni di Renzi, quelle di Padoan, no, addirittura uno 0,2 in più con gli 80 euro, altro che 1%, altro che 0,8, altro che 0,4, faremo meno 0,4, dice oggi l'OCSE, e unico dei G7 a non crescere. Renzi sulla credibilità e le riforme. È un mondo difficile. È vita. Però c'è una novità rispetto al passato. Anzi, ce ne sono due. Una è che questo allenatore c'ha la testa dura e va avanti senza mollare di un centimetro. Ma la seconda è che per la prima volta sugli spalti c'è gente che fa il tifo perché la squadra vinca. Questo è una parte dell'intervento di Renzi dalla fiera del Levante, dopo aver precisato che l'Italia rispetterà gli impegni ma non vuole lezioni da nessuno. Era la risposta a Katainen, che poi gli ha risposto. Qui stiamo già a romperci le scatole con il finlandese Katainen, che se parte così partiamo male. Katainen, glielo dico, ma lei ha perso pure le elezioni in Finlandia perché era troppo rigorista, mo viene a spiegare a noi quello che dobbiamo fare a livello europeo, perché in Finlandia non la vogliono più. Comunque Katainen, che dice non siamo maestri ma siamo interpreti, ma che è? Pure l'interprete Katainen. There will be the Juncker investment program which will be published later on this year. Il piano per gli investimenti si rifà al programma del prossimo presidente della Commissione Juncker. Noi incoraggiamo gli stati membri a rendere prioritari gli investimenti pubblici per il futuro su ricerca e innovazione, ma anche nelle infrastrutture. Inoltre incoraggiamo gli stati a fare le riforme strutturali per rafforzare la competitività. Non puoi stimolare una macchina se è mezza rotta. Ciò è importante non solo per l'Italia, ma per tutti i paesi membri. Non ci sono paesi immuni dal processo di riforme strutturali. There is no country which would be immune. Concerto e calma, sonata di vento. Allora, Guido Gentili, aiutaci tu, come cantava una volta una vecchia pubblicità. Buonasera, l'editore di Rivista del Sole 24 Ore. Buonasera. Immagino anche lui schierato nella linea del negare la verità e diciamo continuare a essere pagato per raccontare che tutto va bene. A me non sembra proprio. Comunque, Guido, dopo il traffico, la tua analisi, perché adesso al di là delle battute, il nervosismo, è qui ho il massimo rispetto, che vedo negli sms, dopodiché non è che mi scandalizzi essere insultato. Beh, a quanto meno di pancia è comprensibile, nel senso che dopo aver avuto l'ennesima, come direbbe Vendola, narrazione di un PIL che cresceva, ci ribecchiamo, l'avevamo capito già a luglio modestamente noi, ma insomma ci ribecchiamo un PIL che non solo non cresce ma è fermo e va anche va giù, unico paese a beccarsi un'altra recessione tra quelli più importanti. Come si inserisce questo dialogo, per modo di dire, tra Renzi e Bruxelles e le ipotesi di chi dice beh, l'Italia non verrà mai commissariata, però vi potrebbe essere una richiesta dell'Europa di dire bene, ogni sei mesi facciamo un check, un controllo delle riforme, dello stato di avanzamento delle riforme, che noi abbiamo chiamato Troika Light perché più o meno si avvicina alla versione della Troika. Allora, Guido Gentili, due possibilità: o qui c'è un, diciamo, gioco delle parti per cui Padoan, il ministro dell'economia, fa il poliziotto buono con l'Europa, dice no ma c'è massima sintonia, e Renzi, il presidente del consiglio, fa il poliziotto cattivo, oppure come va a finire questa storia per cui girano voci di una troica che ho chiamato light, cioè di una specie di monitoraggio forte, e Renzi dice no, non lo vogliamo, le riforme le facciamo noi, tirate fuori 300 i 300 miliardi di cui parte andrebbero all'Italia. A me sembra che purtroppo, come avevamo previsto da quando sono usciti i dati sul PIL, l'accelerazione dei problemi sia stata evidente, evidente perché il governo non riesce a centrare un obiettivo in questo momento. Comunque, Guido. Sì, la situazione è quella che ha dipinto l'OCSE e che aveva dipinto già nel 2013. Vorrei ricordare che già allora disse l'OCSE che l'Italia era l'unico paese del G7 che presentava il segno meno davanti nella crescita del PIL. Non più tardi di sabato, di venerdì anzi, il direttore generale della Banca d'Italia Rossi, intervenendo a Sondrio, ha detto che il paese è fermo dagli anni 90. Quindi questo è quello che ci portiamo dietro e questi sono i risultati che noi annotiamo oggi, nonostante gli annunci. Ne ha fatti tanti Renzi e adesso è arrivato il momento della verità. Deve fare la legge di stabilità, deve presentarla entro il 15 ottobre, la legge verrà trasmessa a Bruxelles e verrà esaminata dalla Commissione europea che esprimerà un giudizio entro il 15 di novembre. E in pista c'è quella che dicevi tu, la soluzione light della Troica, che è sostanzialmente la ripresa di un dibattito sui famosi contratti che siano stati ipotizzati l'anno scorso nello scambio tra riforme e flessibilità. E quindi potrebbe esserci una vigilanza più stretta della Commissione che porterà ovviamente a una verifica puntuale dei passi in avanti o indietro delle riforme che sono state annunciate. Questo è il percorso che ci aspetta, credo. Allora, una risposta però questa volta seria, non comprensiva, la voglio dare, perché c'è sempre chi scrive quando c'è questo tema: ma non avete capito che oltre che essere falliti le lobby straniere, strano che non metta judo, plutaico, massoniche, vogliono smembrarci e fare, e Bilderberg chiaramente, e fare cassa, le superpotenze mondiali non vedono l'ora di possederci. Sì, però noi siamo anche come vabbè, non voglio fare un esempio volgare, però siamo anche bravi a farci possedere, perché scusate un secondo, ma le riforme di questi 20 anni, quelle che la Germania in effetti ha fatto, chi è che ha impeto di farle? La lobby straniera, Bilderberg, Pluto, giudaico, massonica? Cioè, noi ci siamo votati dei governi che non hanno fatto le riforme, ok? Me ne citate una, per favore? Che abbia messo maggiore concorrenza, maggiore flessibilità, meno burocrazia, un carico fiscale più leggero su chi produce e magari la lotta vera agli evasori. Io ho visto solo scudi fiscali. Allora, adesso, dire che la colpa è delle lobby internazionali che vogliono smembrarci, diciamo che siamo stati bravi ad arrivare belli smembrati. Poi, se qualcuno dice, vabbè, a questo punto ne approfittiamo, questo non lo so, ma siamo noi gli artefici del nostro male. Chiudo, perché va ben tutto, ma dà sempre la colpa all'esterno. Ci siamo votati quello che volevamo, perché tanto bastava dire che i ristoranti erano pieni, la gente comprava i telefonini, la crisi non c'era. Vi faccio riascoltare tutti i file di questi anni sulla crisi che non c'era, sul declino che non c'era, che era colpa dei comunisti, dei giornalisti, e basta, no? Allora, un po'. Se eravate in questo paese, sapete che in questo paese i governi vengono democraticamente eletti. Chiuso con il pippotto, Guido Gentili, come andrà a finire domani, secondo te, nel discorso di Renzi sui 1000 giorni e anche nelle risposte che vuole dare a Standard & Poor's? Ma secondo me Renzi riproporrà il tema della strategia dei 1000 giorni, farà l'elenco delle riforme che sono state già annunciate, dirà che continuerà e accelererà il passo delle riforme, e probabilmente forse dirà qualcosa sul mercato del lavoro, perché credo che dovrà in qualche modo presentare a Bruxelles qualche risultato entro ottobre sostanzialmente, e poi dirà qualcosa sul rapporto con l'Europa, dirà che lui non è per l'Europa dello spread e della tecnocrazia come ha già fatto nei giorni scorsi, e punterà su quelle che sono state le linee guida della nuova commissione, che riguardano la possibilità di investimento per 300 miliardi. Ovviamente ribadirà che non verrà sottratta la sovranità nazionale, quote ulteriori di sovranità nazionale, e che quindi l'Europa dovrà stare da questo punto di vista al suo posto. In realtà poi sappiamo che sarà un confronto molto difficile, molto complicato. La manovra è alle viste, perché dovrà metterla a punto entro la metà di ottobre, e arriverà il momento delle scelte. Penso ad esempio alla sanità, alla pubblica amministrazione e a tutti i temi che sono stati messi sul fuoco. Sì. E ora è arrivato il momento della verità. Ecco, Guido, per concludere, secondo te quello più, insomma, il segnale più forte per dire non stiamo scherzando, non facciamo solo annunci, è la riforma del mercato del lavoro? Assolutamente sì. E su quello, cioè, vedo già dichiarazioni anche oggi sull'articolo 18, dire riformeremo. È un tema, come sappiamo, molto difficile. Sì, però anche quello che ha minor impatto sui conti pubblici, no? Nel senso che non ci sono, da quel punto di vista, un po' come la riforma della burocrazia, che non capisco perché sia accantonata, ma comunque sono quelle riforme quasi a costo zero. A costo zero non c'è nulla in però economia. Però di grande significato simbolico, però di grande significato in Europa. Perché un paese che fa una riforma sul mercato del lavoro vuol dire che è un paese che ha la forza, nonostante le divergenze e tutto il resto, di riformarsi. Questo lo dico a tutti, anche a quelli che mi stanno insultando con tanta attenzione. E ti sei beccato qualche insulto anche tu, Guido? Benvenuto nel club. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. È un mondo difficile, è vita intensa. Ed è solo lunedì, domani martedì ci sarà Renzi in mille giorni, preparati, calmi, qualche buono energetico, qualche vitamina. Domani ascolteremo il Presidente del Consiglio sui mille giorni, vedremo se ci darà anche delle scadenze certe, e devo dire che anche lui si rende conto che governare purtroppo con questi numeri, perché nessuno, e questo non li ha voluti Renzi, non li ha nemmeno creati Renzi, per cui, ma governare con questi numeri è di una difficoltà incredibile. E non bastano delle volte i tweet, occorre adesso andare a farsi votare le riforme se c'è la maggioranza in Parlamento e andare avanti su questo. Noi ci risentiamo domani, intanto da Sebastiano Barisoni un auguro di buona serata a tutti voi, e pronti domani a vedere quali saranno i prossimi mille giorni di questo paese. Radio 24, la passione si sente.